Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. I funamboli sono ritornati, cari ascoltatori. Sono le 9:07 minuti. Diamo subito i contatti per chiamarci: 800 24 00 24, i messaggi WhatsApp al 349 238 6666, e cara Veronica, c'è anche la mail funamboli@radio24.it. Ciao. Adesso ti mando una mail subito. Per dirmi che cosa? Niente. Come sei bello stamattina. Ma smettila. Allora, come stai lì a Roma? Tutto a posto? Bene, tutto bene. Bella giornata, ha piovuto un po', ma adesso è bello. Che strano. Allora. E lì com'è? No, guarda, aspetta, mi devo girare, mi allontano dal microfono. Guarda. C'è il sole. È abbastanza incredibile, ma c'è il sole. È bastato che me ne andassi io, avete risolto. Allora, cari ascoltatori, oggi abbiamo una puntata ricchissima. Parleremo tra poco di multe. Cari automobilisti, di multe, sì. Argomento graditissimo. Ma parleremo anche di tanti argomenti. Sai, per esempio, Veronica, che i circhi. Tu andavi al circo quando eri piccolina? Sì. Io ci andavo, poi quando ho portato i miei bambini, devo dire, mi ha messo un po' di malinconia. Allora, è piaciuto o no? Ma non lo so, sono io che sono andato con l'atteggiamento di ritrovare quell'atmosfera del circo che era da bambino e invece non... Ma non tu non sei più bambino, rassegnati, no, ci hai portato loro. Mi rendo conto. Comunque, i circhi rischiano la chiusura. C'è un decreto legge, un disegno di legge che potrebbe portare alla sparizione di 10.000 posti di lavoro. E quindi... È una questione controversa questa che andremo a discutere, perché sì, ci sono varie posizioni. Esatto. Però... Circo è questo. Dai giornali, vabbè, questo è De Luca, circa questo. Dai giornali mi ha colpito, poi mi dici la tua, mi ha colpito molto quello che scrive Il Giorno. Oggi Il Giorno fa un'inchiesta, anzi una serie di inchieste che partono oggi di PR Marketing per Il Giorno, il quotidiano nazionale, La Nazione, ecco, chiamatelo come volete, io ho l'edizione del Nord. Sull'Islam, domani si parlerà dell'Islam e la donna, l'Islam e i potenziali legami col terrorismo. Oggi il primo sondaggio certifica questo: un islamico su tre in Italia ammette "non voglio integrarmi". A me inquieta un pochettino questo 31%, perché abbiamo visto che alcuni che hanno colpito del terrorismo sono quelli di cosiddetta seconda generazione, quei giovani cresciuti nelle nostre società che però, almeno questo dice questo sondaggio, non vogliono integrarsi. A me colpisce. Uno su tre, il 31%. Questo... Beh, sono tanti, se fosse realmente così sono tanti. Questo è un sondaggio compiuto con interviste face to face appunto a questi ragazzi, ragazze, e dicono questo. Non vuol dire non voglio integrarmi, non vuol dire niente di più, però è un segnale non bello. Cioè non vogliono far parte della cultura occidentale vera e propria. Esatto, non la capiscono, la rifiutano, non l'accettano. E tu che mi dici? Ma io ho molto da dirti. Intanto volevo chiedere a te, ma come mai non ti sei candidato contro Di Maio come candidato premier ai 5 Stelle? Ma perché chi se ne frega? Cioè, mica mi devo buttare in politica. Ma abbi pazienza, ma perché Saviano sì e tu no? Io ero sicura che ieri sera arrivasse la tua candidatura. Ma no. Anche perché voglio dirti, sai la mia considerazione di te, ma guardando gli sfidanti, voglio dire, non è che proprio insomma ci sia stata una cernita particolarmente selettiva, ecco, vogliamo dire così. Si è detto un po' tutto, si è detto una sorta di elezione bulgara, Di Maio contro Luigino, è stato detto un po' tutto. Però poi in serata sono comparsi questi sette personaggi che sono stati reclutati, di cui alcuni ti chiedi anche quanto sia stata una loro decisione. Per esempio c'è la senatrice Elena Fattori, che è uno dei personaggi più noti dei 5 Stelle, cioè più noti tra questi qui, dicevo, che la sera prima aveva fatto invece un endorsement a favore di Di Maio, dicendo grazie Luigino per esserti candidato. Quindi come mai il giorno dopo le sia venuta questa botta di vita dicendo mi candido io, siamo abbastanza incerti. Ma in particolare ci colpisce invece questo Gianmarco Novi, il fruttariano. Esatto, vegano, anzi fruttariano, che posta sui social consigli per esempio per un integratore a base di mela annurca campana IGP capace di contrastare la calvizie. Io ve lo dico qualora dovesse servire. Lo suggeriamo a maniera. Faglielo presente, perché potrebbe sempre darsi. E beh, contro il signoraggio bancario, insomma, un personaggio devo dire abbastanza così eclettico. Poi insomma ce ne sono vari altri, però leggendo le biografie ci si rende conto che insomma che c'è un'umanità abbastanza varia tra questi candidati. Ma se volete chiamarci anche su questi temi, fatelo. Pensate che questa del Movimento 5 Stelle sia una mossa non democratica? Io per esempio penso che i partiti possano scegliere come credono i candidati premier. Per me è sacrosanto, però forse basta dichiararlo a monte e non fare un'elezione ad hoc in cui si sceglie chi incoronare, perché l'errore è stato questo. Di fatto ognuno ha il diritto di scegliere chi è il capo del proprio partito, movimento e chi vuole candidare, ma se si decide di fare delle elezioni, apparentemente delle elezioni in rete, poi non può esserci un candidato e sette che vengono reclutati con un casting fatto alla corrida di Corrado gli ultimi 10 minuti. Il problema probabilmente è che, e c'è un problema all'interno del Movimento 5 Stelle, che gli altri big, diciamo così, non so, i Di Battista, i Fico, non si sono candidati. Allora quelle sarebbero state, come dire, delle pre-elezioni belle, però io non credo che questa sia stata una sorpresa, Alessandro, perché no, Di Battista credo che si sapesse. Fico è l'unica questione più controversa, però lì ha a che fare con le due anime, le due fazioni interne al movimento. Questi qui sembrano più appunto delle comparse messe lì per suggellare Di Maio premier. È chiaro. Comunque questi sono anche dei temi sui quali potete chiamarci all'800 24 00 24, ma come detto partiamo dalle multe. Sono 15 anni che io faccio questa strada a tutte le velocità. Prego, favorisca la patente, per favore. Ma tu sai chi sono io? Favorisca la patente, per favore. Tu non mi riconosci o fingi di non riconoscermi? Dispiacente, ma io in servizio non riconosco nessuno. Il vigile. Comunque, Alberto Sordi, il grande Alberto Sordi. Allora, ieri sul Corriere della Sera c'era questa inchiesta. Il Corriere della Sera ha elaborato un indice sulle multe, su quanto paghiamo di multe, o meglio... È stata la ragione per cui tu hai insinuato che io sono tornata a Roma, te lo voglio dire, vorrei ricordarlo. La cosa interessante è questo: il Corriere ha calcolato quanto ogni residente nelle città abbia pagato in media in multe ai comuni e quanti centesimi siano stati effettivamente incassati dalle amministrazioni. Questo è il punto, perché fatto 100 euro, come dire, di sanzione data dal comune, poi si va a vedere quanto il comune effettivamente riesce a incassare di questi 100 euro. E ci sono dei dati abbastanza diversi. Per esempio a Bolzano, e salutiamo il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi. Sindaco, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Incassate 67% di quei 100, sì, più poco. O meno. Lei dice poco, scusi, sì, le presento allora al sindaco di Bari, che tra l'altro è il presidente anche suo, perché è il presidente delle ANCI di tutti i sindaci, sì. Il sindaco Antonio De Caro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. A Bari credo che siate al 20% di, almeno questo secondo gli indici del... 19 per la precisione. 19. Ma com'è possibile questa cosa? Sindaci, com'è possibile che non ci sia un minimo di equivalenza negli incassi che vengono fatti? Partiamo da Caramaschi, perché si lamenta, dice che è poco? Ha sentito a Bari 19%, Caramaschi. Io tendenzialmente, senza offendere il presidente dell'ANCI, la città di Bari, il loro sistema, io guardo a nord, alla Danimarca, alla Finlandia, alla Svezia, dove il senso civico è piuttosto elevato, quindi devo dire che poi quel 67 lo rincorriamo per il non riscosso e non molliamo mai l'osso. Quindi non è tanto un fatto di persecuzione, devo dire che la stampa non aiuta molto, perché quando parla di multa è sempre il cittadino oppresso, invece sono cittadini che eccedono nella velocità, sì, non rispettano i limiti, entrano alla ZTL, non rispecchiano le zone blu per i parcheggi, quindi però c'è un costume italiano anche nell'informazione, se mi consente di dire, poveri cittadini, poi non sono poveri cittadini, sono cittadini che hanno sbagliato. È vero però che nel 2016 erano usciti dei dati che dicevano che negli ultimi 3 anni da quel momento le contravvenzioni in Italia erano aumentate del 956%. Guardi, noi siamo sempre fermi a 5 milioni di euro, perché ci sono però, sindaco, comuni che si fa fanno la cassa così. Ci sono. Allora. Non abbiamo bisogno delle multe. Vorremmo emettere zero multe. Noi pensi che abbiamo 80.000 multe in un anno, di cui molte della ZTL che non rispettano, o eccesso di velocità. Devo dire che quel non riscosso riguarda, siamo una città di confine, abbiamo molti turisti, e c'è un fatto strano, che i tedeschi, gli austriaci, gli svizzeri, che numerosi vengono qui e che magari violano le norme del codice, e non pagano. Quando sono in Italia si sentono autorizzati, e poi tornano là, è difficile prenderli, sì. Quindi noi abbiamo introdotto la riscossione immediata, quindi una componente del non riscosso deriva anche da turisti. Da questo. Che poi Però lei, sindaco, dice è poco. Sentiamo De Caro, sindaco, che è sindaco a Bari e poi ha anche una visione nazionale, perché che ne so, a Napoli è il 21%, a Reggio Calabria è il 7%, A Milano si paga il doppio che a Roma, a Milano il 40%, si incassa a Roma il 24%. Quindi, per esempio, Firenze incassa 7 volte quello che incassa Bari, essendo praticamente uguale, appunto. Una popolazione leggermente superiore. Come mai, sindaco De Caro? Allora, quei dati fanno riflettere e fanno capire alcune cose. La prima, sicuramente non sono aumentate le multe, lo fanno vedere quei dati. Nel passato, fino all'anno scorso, era possibile mettere nei bilanci dei diversi comuni o la quota legata alla cartella esattoriale, cioè la multa, oppure si poteva inserire il cosiddetto riscosso. Quindi, fatto 100, io potevo scegliere come sindaco di Bari di mettere nel bilancio o 100 o 19, visto che noi riscuotiamo il 19%. Noi abbiamo messo il 19. Mi sembra più corretto. Adesso spieghiamo perché. A Bolzano potevano scegliere di mettere 100 o 67. Dall'anno scorso, con l'obbligo dell'armonizzazione del bilancio, che per qualcuno, come per il mio comune, è partito prima, perché siamo stati enti sperimentatori, lo Stato dice non devi mettere più il riscosso, devi mettere quello che hai mandato a casa, cioè devi fare l'indicazione, devi mettere l'indicazione della cartella esattoriale. Il 100, quindi devi mettere 100. Ma è un bilancio fasullo così, perché se non... No, perché poi è stato costruito un fondo che si chiama Fondo Credito di Esigibilità. Quindi nell'anno precedente i comuni potevano scegliere se mettere l'importo mandato a casa o l'importo effettivamente riscosso. Nell'anno successivo siamo stati tutti obbligati a mettere l'importo che abbiamo mandato a casa, che è ovviamente superiore, quindi sembra, leggendo i nuovi bilanci, che sono aumentate le multe. Quindi abbiamo sconfessato con una piccola analisi. I cittadini sono ma perché qualche città riscuote effettivamente di più rispetto alle multe che sono mandate? Perché il senso è questo, no? Essendo semplice. Le motivazioni sono due. La prima è di carattere economico e sociale. Nelle zone dove c'è maggiore difficoltà dal punto di vista economico e sociale, ci sono nuclei familiari che devono scegliere se pagare l'affitto o pagare la bolletta della luce piuttosto che pagare una multa. Molti ovviamente scelgono di pagare l'affitto, la multa la tengono lì fino a quando non diventa, diciamo, improcrastinabile il pagamento della multa stessa. Sì. Infatti, se e vedete aumenta peraltro cose... e peraltro aumenta, perché se si paga subito si paga meno, e se si paga dopo si paga di più. Però in tanti devono fare i conti con il budget mensile, settimanale, quindi molti preferiscono pagare la bolletta elettrica o quella del gas nel periodo invernale. E lei lo spiega soprattutto per questo, problemi sociali, una parte è questa. Un'altra parte è legata a chi fa la riscossione. Se la riscossione la fa il comune ha interesse ancora di più oggi ad aumentare la riscossione per quel fondo che vi ho detto prima, fondo crediti dubbi esigibilità, adesso vediamo che cos'è. Ma altri comuni hanno come riscossione, soprattutto per le multe da codice della strada, Equitalia, che è una struttura, un'agenzia nazionale che è stata lì per anni e non è colpa però, dei comuni. Sindaco, scusate, io fa le riscossioni. No, io vorrei porre una questione, la pongo in maniera brutale, poi dopo voi mi dite, visto che abbiamo da nord a sud rappresentati tutti, abbiamo anche il centro con Veronica Gentili e anch'io sono il quasi nord, insomma, però se oggi uno copriamo va, tutto. Ma se uno va da nord a sud, e forse una considerazione Caramaschi la si può fare, lei ha citato la Danimarca e la Svezia, a Bolzano 67, a Bologna e Roma 54, 40, 38, poi si scende Napoli 19, Bari 19, Reggio Calabria 7, cioè non c'è, Caramaschi, un po' un nord-sud, una classifica anche, per carità, io la pongo. Beh, io non sta a me giudicare, dico solo, faccio un'altra constatazione. I numeri dicono questo. Che sulle macchine assicurate, per esempio, la media nazionale dei non che non pagano, sono privi di assicurazione, è del 23-24%, qui siamo al 10%. Allora, è questione di abitudine, perché sennò diventa il gatto che si mangia la coda. Io capisco il sindaco di Bari, quindi capisco le situazioni sociali, socio-economiche diverse, però anche qui non è che siamo certo una città opulenta, la più ricca, però perché siamo la città più ricca, più opulenta anche dal punto di vista delle finanze del comune? Noi abbiamo chiuso tutti i debiti con la cassa depositi prestiti, perché sulle tariffe, sui servizi comunali, sulle multe, sulle rette delle scuole materne, sull'illuminazione, sulla tassa smaltimento rifiuti, arriviamo al 90-93% e il residuo lo perseguiamo, per cui i bilanci sono sani e ci consentono di, siccome siamo prudenti nell'esposizione delle entrate, di avere degli avanzi che consentono poi l'investimento in opere pubbliche senza indebitarci. O qui ci si mette in testa tutti dal nord a sud, non faccio riferimenti allo specifico caso di Bari, che è una bellissima città, però bisogna che il cittadino incominci a entrare nell'ordine di idee che i servizi sono pagati. Allora il discorso va spostato alle tariffe, non in sede di riscossione, perché quando uno viene e riceve un servizio lo deve pagare. Questo deve essere Una delle questioni che volevo porre è: quanto incide il rispetto delle regole, secondo lei, sindaco, da parte dei cittadini? Cioè, che la questione poi è un po' questa anche in termini di problema, no? In termini di bilancio, guardi, un 30-40% del bilancio che è dato da servizi comunali erogati alla cittadinanza, che sono a tariffa, gioca su questo. Non è solo le multe, come dicevo, sono tutto, dagli asili nido, alle scuole materne, all'illuminazione, alla tassa smaltimento rifiuti. Abbiamo 50.000 servizi che rendono i comuni ai cittadini. Allora il senso civico deve far capire al singolo cittadino, e qui sta anche all'amministrazione un po' di serietà di perseguire, che deve pagare, che la città funziona se tutti fanno la loro parte. Teniamo basse le tariffe, come con le tasse, se tutti pagano manteniamo inalterate su le questo, tariffe se questo, su questo vedrei Oscar Giannino, già che si arrabbia, perché dirà invece più incassano i comuni e più si tengono. Però sindaco De Caro, lei che pensa? Questa è insomma una visione. Lei comune, che pensa, sindaco, comune, anche della visione nord-sud? Il mio comune, nonostante è un comune del sud, ha vinto l'Oscar di bilancio negli ultimi due anni. L'anno scorso e due anni fa ha vinto l'Oscar di bilancio nazionale dato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non da una struttura esterna, quindi da chi controlla poi i bilanci. Il tema però è, come dicevo prima, legato sia al senso civico, come diceva giustamente il mio amico collega, e lì bisogna fare un lavoro soprattutto in alcune zone del paese, cosa che in tanti stiamo cercando di fare. Nella mia città era difficile far pagare il biglietto dell'autobus, ho messo i vigili urbani insieme ai verificatori dell'azienda dei trasporti, oggi siamo passati da meno 2 milioni di euro l'azienda dei trasporti a più 200.000 euro, e il questo delta è legato soprattutto al pagamento del biglietto e all'aumento degli abbonamenti. Non parliamo di tariffe, di imposte, di tasse, parliamo del regolare biglietto dell'azienda di trasporti, ma fa capire il senso dell'attività che va fatta da un'amministrazione per aumentare il senso civico. Ma è chiaro, è una sfida nel tempo. C'è però un tema economico, perché nella mia città, faccio il paragone con Firenze e Bologna, che hanno la stessa dimensione, lo stesso numero di abitanti, io ho 50.000 disoccupati e il 21% della popolazione è sotto la soglia di povertà, sono sotto i 3.000 euro di ISEE all'anno. Nardella e Virginio Merola, con i quali mi confronto spesso in un, diciamo, una sorta di pensatoio di città metropolitane, ma che hanno numeri non paragonabili a Roma e a Milano, è chiaro che loro non hanno gli stessi problemi dal punto di vista della disoccupazione e delle difficoltà economiche, quindi lì è più facile pagare una multa. Certo. Poi c'è l'altro tema che abbiamo, diciamo, che abbiamo visto velocemente durante la trasmissione, che è quello del numero delle multe, cioè gli importi complessivi. Ci sono città che hanno maggiori multe rispetto ad altre. La mia città ha meno multe di Bologna e di Firenze. Sono più rispettosi del codice della strada i baresi? No, credo proprio di no. Non lo so. Assolutamente sì. Lo dico io, può darsi sindaco, anche che sia virtuosissima Bari. Non darsi niente, non sono più rispettosi di Bologna e Firenze. E qual è il motivo? Firenze e Bologna, se andiamo poi ad analizzare i dati, perché da avendo l'onore di rappresentare i sindaci, i dati me li devo studiare sempre tutti, Firenze e Bologna, così come tante altre città, la maggior parte delle sanzioni le recuperano dal controllo elettronico delle zone a traffico limitato, sì. Quindi città che hanno cominciato a fare pedonalizzazioni molto ampie nel passato e cominciato a controllare gli accessi delle ZTL o delle APU, delle aree pedonali, ovviamente hanno un numero di multe superiore, diciamo che la metà delle sanzioni è legata al controllo degli accessi. No, ma è chiaro. Veramente. Io volevo tornare su un aspetto che è un po' l'aspetto dell'emulazione, nel senso che quando c'è un trend comportamentale in una città, la famosa teoria delle finestre rotte, no? Che nel momento in cui si comincia a vedere del disordine urbano si tende ad emularlo. Allora, su questo mi chiedo quanto incide anche il comportamento dei cittadini baresi, di tutti, dei romani, penso a me, e in generale al nord quanto è diversa l'attitudine. Cioè, poi uno parla sempre dei sindaci, però c'è anche il comportamento delle persone, dei cittadini. Rudolf Giuliani ne ha fatto, come dire, un mantra anche a New York di questa teoria della finestra rotta, no? Cominciare a riparare i piccoli problemi per riparare. Non so, sindaco Caramaschi, che poi siamo in chiusura, vuole rispondere a questo? Sì, credo che il senso civico del comportamento dei cittadini sia fondamentale, ma devono percepire leggermente, se mi consente, il fiato sul collo. Quindi diventa una politica virtuosa, un controllo da parte dell'amministrazione che non tartassa ma controlla i cittadini che si abitano ed amano la loro città, che si rendono conto che se la rispettano diventa più bello. Qui devo dare un po' di solidarietà all'amico sindaco di Bari, perché in effetti la situazione socio-economica incide, credo, molto. Qui abbiamo una disoccupazione del 3%, cioè è fisiologica, ma perché anche questo? Perché la capacità di attrarre capitali dall'estero deriva da una situazione ordinata di rispetto delle regole, di attrattività del territorio, di politiche sociali e culturali, diventa un circolo virtuoso. No, però bisogna entrare, questo è vero, quindi gli do tutta la solidarietà. Allora, solidarietà Bolzano a Bari. Esatto, abbiamo unito l'Italia. Intanto noi vi ringraziamo molto, sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e sindaco di Bari e presidente di tutti i comuni dell'ANCI Antonio De Caro, perché cara Veronica ci hanno aiutato a capire tante cose. Hai sentito che tosto Bolzano, il fiato sul collo dei contribuenti, eh? Il fiato sul collo. Multati! Avrete il fiato sul collo. No, ma più che fare tante multe, pensare che poi una volta fatte uno non dice vabbè, mi hanno fatto la multa, dai. E il discorso è, mi hanno fatto la multa e forse dovrò anche pagarla, forse. Può darsi che, no? Ma io quando ricevo una multa a casa, quando me la trovo, dico porca... E poi pago, cioè, tu sei sfizzero nell'anima. Ma se l'ho messa in divieto di sosta e vengo pizzicato, pago, ma cosa devo fare? Cioè, pago, ho sbagliato, non c'era da parcheggiare. Ma adesso quanto sei esagerato. Piano Eccolo piano là. Arriva la multa, poi ti arriva a casa, il poi condono. La paghi. Insomma, non è che Eccolo devi là. Essere così pedante. Vabbè, sentiamo e abbiamo Bruno. Inscenato la differenza tra le attitudini. Esatto. Bruno da Milano, buongiorno, che ci vuole dire? Lei ha chiamato all'800240024. Bruno. Sì, io mi chiamo Bruno Carozzi, sono stato candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle ad Arese. Volevo fare due brevi considerazioni. La prima, perché chiamate bulgara la nostra votazione mentre nessuno ha usato lo stesso termine per l'incoronazione di Renzi a segretario del PD? Io non l'ho chiamata bulgara, no, Veronica Gentili, sì, quindi adesso le risponde. Io infatti dico, per me possono eleggerle anche, possono anche estrarli a sorte i partiti, i candidati premier, per me, per quanto mi riguarda. È una questione interna dei partiti, però Veronica rispondi tu a Bruno. Bruno, uno degli aspetti virtuosi del Movimento 5 Stelle è stato proprio quello di fregiarsi in qualche modo di scegliere i propri rappresentanti attraverso la rete, e mi sembra che tutte le difficoltà che il movimento ha incontrato finora sono state legate alle elezioni, che fossero amministrative, che in questo caso sono nazionali, a più e più riprese, perché questo sistema si dimostra fallace, fino a quest'ultima occasione in cui non ci sono stati dei candidati reali, e la sfido a smentirmi, che si siano contrapposti a Di Maio. Che dice Bruno? Smentisco subito, perché il discorso è semplice. Se si fossero presentati la Letti, Di Battista piuttosto che Fico, avreste parlato di divisioni, di correnti, no, di dissidi. No, scusi, lei, voi non per esempio... No, mi lasci finire solo un secondo, sì. Non sono provvisto, sono conciso. Voi non vi rendete conto che c'è una sorta di astio e di voglia di trovare sempre la pagliuzza dentro le nostre procedure. Bruno, guardi, io rispondo onestamente per me. Io proprio non mi assumo questo ruolo, non sono ostile al Movimento 5 Stelle, no. Non lo sono mai stata e lo dico in coscienza, e in coscienza le dico altrettanto che questo secondo me è un aspetto molto fragile del Movimento. Bruno, se poi uno non è disposto ad accettare le critiche è un altro discorso, ma anche non credo io che sia... Ma io sono disposto ad accettare le critiche, non accetto la persecuzione. No, ma Bruno, scusi, lei... Scusi, è una persecuzione. Scusi, allora, però la categorizzazione, la stampa per me è un quotidiano, dire i giornalisti, infatti. Allora io potrei, lei che lavoro fa? Sono un imprenditore nel fotovoltaico. Gli imprenditori nel fotovoltaico pensano che, no, lei Bruno pensa che, Veronica Gentili pensa che, Alessandro Milan pensa che, ogni giornalista è diverso, quindi le categorizzazioni a me non piacciono. Lei dice Renzi è stato eletto, hanno fatto le primarie. Piacciono, no, sono state fatte delle primarie, voi nel senso Movimento 5 Stelle queste elezioni. Si sottolinea che Di Maio ha di fronte a sé non Fico, non Di Battista, non che ne so i maggiori esponenti, ma persone che... Quello che lei dice, no. Bruno, è vero se ci fosse stata la contrapposizione di Fico, perché si è creato un dibattito rispetto a due scuole di pensiero interne al Movimento, ma se si fosse candidata, dico la Lezzi, ne potrei dire altri, non si sarebbe detto questo, si sarebbe detto che c'era una cosa, o quando si era ipotizzato, poi è stato subito smentito, l'Appendino per esempio, nessuno avrebbe detto, ah vedi è finto. Si sarebbe detto perfetto, si sta scegliendo una figura. Come vedete il tema divide, la ringraziamo Bruno per il suo intervento, andiamo in pubblicità, poi parleremo appunto di questa cosa dei circhi, i circhi che rischiano di chiudere, c'è il problema anche legato ovviamente agli animali, cercheremo di spiegarlo e chiamateci anche sul tema Movimento 5 Stelle, quello che volete, 800 24 00 24, tra poco. I funamboli. Candidati premier del Movimento 5 Stelle, uno straccio di programma, ce l'hanno? C'è modo di saperlo? Grazie Alberto. I nostri ascoltatori al 349-238-6666, beh, c'è, io credo che se uno vada sul sito si possono trovare. Comunque, basta informarsi. Cara Veronica, oggi anche sulla Verità, dopo che ieri il Messaggero ha dedicato una pagina, c'è un'intera pagina dedicata ai circhi. I circhi che rischiano di sparire. Perché c'è un disegno di legge, che è il disegno di legge in materia di riforma dell'attività dello spettacolo dal vivo, che prevede, per dirla brutalmente, l'eliminazione degli animali da questo tipo di spettacoli. Come dire, animali e circo. Cosa che ha lasciato nello sconcerto ovviamente tutti coloro che lavorano nei circhi da sempre e che si sono sempre rapportati con gli animali. Quindi qui... La questione è molto controversa, perché togliere gli animali dai circhi sarebbe un po' come togliere gli attori dai teatri, no? È un po' sì. Tra l'altro con noi c'è Flavio Togni, che è vicepresidente dell'Associazione Circhi, tra l'altro un cognome che è la storia del circo in Italia. Togni, buongiorno e grazie. Buongiorno di essere Davide, qui. Buongiorno Veronica. Alessandro. Buongiorno. Alessandro, scusa. Flavio Togni, allora, davvero sono intanto, cioè, rischiamo nel giro di due giorni, se passasse questo disegno di legge, di chiudere, far perdere 10.000 posti di lavoro e far chiudere tutti i circhi? Guarda, siamo probabilmente in un prossimo futuro, sì, in due giorni mi sembra un pochino troppo repentino, perché la legge che il spettacolo dal vivo dedica praticamente un rigo e mezzo, come hai detto tu, dicendo la progressiva eliminazione dagli spettacoli degli animali, quindi potrebbe essere tutti gli animali, sì, inclusi i cani eventualmente, cavalli. Animali domestici, e io, come tutta la nostra categoria, d'altra parte, vediamo questa legge molto, tra virgolette, razzista, perché i cavalli nel circo fanno un tipo di spettacolo molto blando, molto leggero, senza nessuno sforzo, mentre in altri sport nei quali vengono utilizzati lo sforzo è superiore. Pensiamo al palio. Ma con concorso ippico, perché certo. I cavalli che per partecipano ai concorsi ippici fanno dei continui spostamenti nelle varie tappe. Però questo è uno dei punti, cioè l'Ente Nazionale di Protezione degli Animali dice è uno dei punti è proprio questo, cioè come vengono trattati nei circhi, è quello che ha spinto il disegno di legge. Allora, comunque, come vengono trattati? Allora, chi è addetto ai lavori lo sa benissimo che tutti i circhi in Italia, in Europa, nel mondo sono super controllati. Tu fai soltanto questa riflessione. Un circo normalmente si può spostare due volte a settimana. Due volte a settimana viene controllato. Viene controllato dai veterinari provinciali, quelli dell'ASL. Una volta si chiamavano veterinari di Stato. Poi la Guardia Forestale, ufficio CITES della Guardia Forestale, in alcune città ufficio benessere degli animali, ufficio diritti degli animali e le guardie. Flavio, ma qual è il principio però che sta dietro a questa legge allora che hanno fatto? Cioè, loro la fanno perché dicono di tutelare gli animali, cioè il criterio qual è? Ma è tutelare gli animali. Allora, se noi siamo già sotto controllo. No, te lo chiedo per capire, cioè quale dovrebbe essere la motivazione? Non penso che sia l'accanimento nei confronti dei 10.000 posti di lavoro nel circo. No, è l'accanimento. L'accanimento sicuramente da parte di associazioni animaliste che fanno pressione sui politici, perché cosa guida la politica? Sono i voti. I voti. E quindi se io vado da un partito politico e dico io vi prometto 50.000 voti che sono i nostri associati, sì, questi sicuramente fanno una riflessione. Cosa ci conviene? Ci conviene far continuare a lavorare i circhi con gli animali o ci conviene far togliere gli animali dal circo? Non perché gli animali stanno bene, ma perché questi ci promettono dei voti. Ma Flavio, quelli che parlano per esempio di circo in declino, del fatto che adesso c'è un calo di spettatori, che è in qualche modo un'attività che non funziona più, che è diventata vetusta, lei che cosa risponde? È così? Pensa realmente che ci sia... No, io rispondo che sicuramente lo spettacolo del circo, come tutti gli spettacoli dal vivo, è in una crisi, ma non è dovuta al fatto che gli spettatori non vengono al circo perché non gli piace più il circo, vengono meno al circo come vanno meno a teatro, vanno meno al cinema, perché abbiamo un'offerta oggigiorno che una volta non c'era. Voi guardate quando uscite con dei ragazzi giovani, sono a sedere a un tavolo in pizzeria e non si parlano, si messaggiano uno con l'altro. Quando torni a casa che hai figli, sono nella loro cameretta di fronte al videogioco che stanno giocando con l'amico che magari è a Milano e tu sei a Roma, perché stanno giocando col videogioco. Questo per dire che c'è una disabitudine a guardare degli spettacoli ad uscire assieme, anche se il circo è rimasta l'unica isola felice dove ancora tutta la famiglia può andare assieme e divertirsi assieme. Insomma, ci sono tanti altri spettacoli, però giustamente uno è questo. C'è da dire che giustamente noi siamo i funamboli e qui ci chiedono, cara Veronica, ma se chiudono i circoli i funamboli che fine fanno? No, noi rimaniamo come trasmissione. Ecco, noi siamo l'unico animale che resta e continuiamo a fare avanti e indietro sulla fune, ma noi siamo preoccupati però, per Flavio noi Togni, perché... anche molti... Ma vedete un pochino anche quella nostra indignazione. Ad esempio, c'è la legge del 18 marzo del 1968, la legge 337, che dice che ogni comune d'Italia si dovrebbe attrezzare con un'area attrezzata per il circo e lo spettacolo viaggiante. Meno del 10% dei comuni italiani ha fatto questo e nessun capoluogo di regione, in nessun capoluogo di regione c'è un'area attrezzata. Tu mi hai chiesto prima, è vero che il circo ha meno interesse sugli spettatori? Sì, perché una volta tu, ad esempio, non so se conosci Padova, a Padova si montava a Prato della Valle con il circo. Come no. Ora invece vai fuori a 8 km fuori dalla città, in un posto sperduto che non conosce nessuno e che non ma ti vede nessuno. La domanda è, Flavio Togni, è possibile un circo senza animali? Perché questa potrebbe essere un'alternativa. Insomma, allora, un'alternativa sicuramente è questo che dicono gli animalisti, c'è il Cirque du Soleil che fa gli spettacoli. Esatto. Ma è un mondo, leggo anche moltissimi messaggi di ascoltatori che ci evidenziano il Cirque du Soleil, però è proprio un'altra realtà, altri fondi, altri realtà, mezzi. Altri mezzi? Allora, il Cirque du Soleil, il loro primo anno che hanno aperto il Cirque du Soleil, nell'84, hanno avuto dallo Stato del Quebec 11 milioni di dollari canadesi di contributo. sapete cosa vuol dire? All'epoca 11 miliardi di lire. Okay? Sì, quando, sì. quando la parte del FUS che viene dedicata al circo sono 2 miliardi, al circo italiano, sì. quindi 100 e passa circhi, sono erano 2 miliardi di lire. Quindi insomma certo un appoggio certo, anche economico ben diverso. Allora Flavio Togni, facciamo così, perché tanto questa cosa la seguiremo come tutte le situazioni in evoluzione, questa più funambolica che mai, cara che probabilmente resterà comunque sospesa per millenni anche questa, esatto. come noi sulla fune, quindi no. Poi ci dico chiamate Carla Rocchi se no siete scorretti, ma la chiamiamo sempre, ma basta questa idea della par condicio, no, che ma c'è poi uno Carla che Rocchi dice... ha la cittadinanza onoraria, ma lì no. quindi ma poi c'è sempre uno che deve dire A e l'altro deve dire B. La par condicio si fa con le domande. Carla Rocchi la chiameremo un altro giorno e ci dirà della sua sui circhi. Noi apriamo a tutti. Comunque Alessandro, se dovessimo eliminare gli animali dai circhi, dovremmo fare una riflessione seria anche sull'eliminazione dei delfinari, degli acquari, del palio, delle corse dei cavalli, di tutto il mondo dell'equitazione in cui si utilizzano i cavalli e così via, perché altrimenti si fanno sempre dei discorsi a pezzettini. Esatto. Di Manera dalle trasmissioni, insomma, cioè, eccolo per qua. Esempio, è giusto che noi teniamo Manera nello studio? Chi lo sa, tra poco. I funamboli. Allora, ci scrivono, fate fare a Manera il salto del cerchio infuocato, tanto non si brucia la criniera. Cattivi, cattivi, guardate che anch'io ho avuto i capelli in passato, ma soprattutto anch'io ho fatto il clown in passato. Ah sì? Sì, facevo il clown, facevo gli animaletti coi palloncini, è presente, le sculture coi palloncini, che è una cosa anche faticosa, in giro per strada, anche al circo l'ho fatto, e venivano tutti i bambini a chiedere i palloncini, c'era un mio collega clown che odiava i bambini perché non li sopportava. Non li sopportava più, perché quando vengono 500 bambini, come è capitato a me, in un giorno devi gonfiare 500 palloncini con la bocca. E quindi che faceva? Allora, odiava i bambini, lui aveva dei guanti per lavorare, per fare i palloncini, e sotto i guanti aveva nascosto dei sassolini. Fingendo di accarezzare i bambini sulla testa, in realtà gli dava dei gran colpi sulla testa. Ma è un mostro! I bambini piangevano, andavano dalla mamma. La mamma pensava che il bambino piangesse perché non aveva ancora avuto il palloncino, e diceva: torna dal pagliaccio che ti fa il palloncino. E pam, altra volta. Grandi colpi sulla testa. Poveri clown. Io difendo i clown, insomma, una delle arti nobili. Quelli che danno dei gran colpi al bambino. No, non diremo mai il nome. Ma io ieri sera invece ho visto uno spettacolo straordinario, cara Veronica e Alessandro. Ero a casa a guardare Rete 4, perché io non ho la TV a pagamento, guardavo Rete 4, e ho visto Povia che cantava la canzone Immigrazia, cioè una canzone... Cosa ridi? Mi ha colpito questa forse. Canzone interminabile, che parlava, in modo, se posso dirlo, insomma, un po' demagogico, anche di immigrazione, mentre per esempio Laura Ravetto e Paolo Crepelo guardavano pensosi. Quindi... mi sono colpito da poco. Una cosa straordinaria. La potete trovare. Vuoi intonarci due note? Non avevo una melodia precisa, era una specie di sermone sull'immigrazione, ma la cosa più divertente è che tutti intorno lo guardavano come se fosse un vero guru che stava dicendo la grande verità. Quindi consiglio a tutti di ascoltare Immigrazia Immigrazia, forse, non lo so. Vabbè. No, ed è diventata Immigrazia, lasciala così. No, lui direbbe Immigrazia, diceva Immigrazia. Adesso la troviamo, prova a vedere un attimo. E comunque, cara Veronica e Alessandro, io questa cosa che non mi ha fatto tanto dormire, poi sono stato confortato dalla notizia che arriva dal Corriere della Sera, che in Italia si vendono sempre più sonniferi. A Milano 6.100 confezioni al giorno, a Roma, cara Veronica, 12.800 convenzioni al giorno. Tutti veramente. Non dormiamo più. Sì, tutti io, sì. E non è che utilizziamo la notte per fare l'amore selvaggiamente, che insomma sarebbe anche un modo poi dopo, quando è finito, per favorire il sonno. No. Non dormiamo più perché tormenti, ansie e paure emergono più di notte che di giorno. Di notte stai lì fissi il soffitto e vedi tutti i problemi proiettati, ingigantiti sul soffitto come se fosse uno spettacolo di ombre cinesi. Allora io ho pensato, quando pensi ai problemi di notte, i problemi diventano enormi e non dormi più, non sei più realista. Per esempio, se hai il sospetto che tua moglie ti tradisca col tuo vicino di casa, di notte ti viene il sospetto che si faccia tutto il palazzo e non dormi più. Se hai il sospetto che tuo figlio si faccia le canne, ci pensi di notte e te lo vedi già a San Patrignano in preda a devastanti crisi d'astinenza e non dormi più. Se hai il timore che nel tuo quartiere ci siano troppi extracomunitari e ci pensi di notte, vedi già dietro la porta della camera un terrorista dell'ISIS pronto a tagliarti la gola e stai male perché non sai come affrontare le difficoltà e si prendono i sonniferi. Allora, io penso che per riuscire a dormire bisogna pensare alle cose difficili che abbiamo già superato nella vita e questo ci darà forza, calma e serenità. Per esempio, abbiamo già tutti superato il momento della nascita con nostra madre che mentre noi venivamo alla luce gridava, urlava, diceva parolacce e già nascere così ti dà l'idea delle difficoltà della vita. Abbiamo superato il momento della vita in cui il cibo più gustoso da mangiare era il semolino. Che già il nome non lascia ben sperare. Cosa c'è oggi da mangiare? Il semolino. Che in più ti davano fingendo che fosse una cosa gustosissima. Abbiamo superato l'inserimento all'asilo, dove di colpo ti rendi conto che non solo tu, ma anche gli altri bambini sono costretti a mangiare il semolino. E allora ti rendi conto che a volte nella vita non c'è scampo per nessuno. Abbiamo superato i tragici cartoni animati per bambini, dove tutti i protagonisti avevano dei drammi alle spalle. Heidi, senza genitori. Remy, che aveva la madre lontana in Argentina. Dolce Remy, piccolo come sei per il mondo tu vai, sfortunatissimo. Lo vedevo sempre. Abbiamo superato i maglioni, i maglioni che si usavano una volta, in lana grezza a collo alto, che venivano venduti insieme ad antistaminici e pomate sfiammanti per contrastare le dermatiti causate dai maglioni stessi. E abbiamo superato il primo bacio, con l'ansia del primo bacio, che non sapevamo come fare. Io per esempio non sapevo come muovere la lingua, allora la tenevo fissa, immobile, perché pensavo che il vero uomo la lingua non la muove mai, per non dar segni di debolezza. Poi abbiamo superato la scuola, l'inizio della vita, che è lì, dura, sporca, difficile, da piangere a volte, ma a volte la cosa più dura non è la vita, è il pensiero della vita. E allora di notte, per dormire, provate a sostituire quel pensiero col pensiero di un'emozione bella, un sorriso, una carezza, o addirittura quella volta che avete trovato posta la macchina proprio sotto casa e forse il sonno arriverà. Io invece, quando di notte soffro di insonnia, prendo dei lassativi, che non dormo lo stesso, però almeno ho qualcosa da fare. Immigrazia, immigrazia, l'immigrazia è una follia, voluta da chi vuole che tu vada via, tu vada via. Immigrazia, baciate. Immigrazia, portami via. C'ha ragione, immigrazia, eh? Sì, perché è il titolo della canzone. Secondo me è romanesco. È sua zia che si chiama Immigra. Senti da qua che ritmo. Un tempo i figli crescevano duri, perché i genitori erano duri. Oggi i figli sono molli, perché siamo tutti molli. Hai visto? Noi stiamo lanciando la canzone di Povia, Immigrazia! Leo, sì, ma tu hai dormito uguale dopo sta canzone? No, più o meno, più o meno. Però dobbiamo andare al giornale radio, dai, ci sentiamo per la seconda ora di Funamboli! Hai problemi di stitichezza? Hai già provato tutti i rimedi, ma nessuno ti fa accomodare sulla tazza? Allora prova ad assaggiare i biscotti di Nonno Piero, i biscottini in offerta a 30x2 che ti daranno il piacere desiderato da tempo e che si abbinano a meraviglia non solo alla tazza del latte. Biscotti di Nonno Piero, tutto il gusto della libertà intestinale. I funamboli. Il paesaggio m'appariva amico dovunque. Cos'è mai una casa se non una sedes? Una sede. Meglio se è una sede rurale. Scoprii molti luoghi adatti per costruirvi una casa e tali che sarebbe stato difficile trovarne di migliori. Qualcuno forse li avrebbe considerati troppo lontani dal villaggio, ma per me era il villaggio che era troppo lontano. Allora mi dicevo, potrei vivere là. E per un'ora vi trascorrevo una vita, d'estate e d'inverno. Vedevo come avrei potuto passarvi gli anni, affrontare la stagione fredda, veder giungere la primavera. Capito, capito, caro Leonardo. Che cos'erano? Queste parole cos'erano? Cos'erano, cara Veronica? Che cosa fate, lo chiedete a me? Certo. Questo è un estratto, miei cari, adesso vi dico esattamente il titolo vita del libro. Vita nei boschi di Toro. Toro Walden. Toro. Ma qua è cultura, caro Leonardo, se non sei adeguato, se non ti senti all'altezza. Ma io so tutto su Toro. era favorevole all'abolizione delle corride anche. Era un po' come questo Kalinic, è un po'... È vedi un po'... che l'argomento ritorna, l'abolizione delle corride, il circo, e tutto quanto si riallaccia, no? No, cara Veronica, era un po' del filone letterario di Kalinic, di Nicola Kalinic. Certo, sempre queste descrizioni, ti ripeto, così tolstoiane dal treno, questo paesaggio che scorre, campi verdi, no? No, perché in realtà ci hai raccontato uno scenario bucolico, potremmo dire, perché questo ci deve introdurre alle 10:09 minuti, quando inizia la seconda ora dei funamboli. Chi ci introduce? La funambola del giorno, che è Emanuela Ceruti Garbaccio. Salutiamola con piacere. Emanuela, buongiorno e grazie di essere qui a Radio 24. Buongiorno a voi, grazie a tutti. E tra l'altro, Emanuela, per parlare con noi, insomma, non è stata un'operazione così semplice, no? Uno chiama. Che ha dovuto fare? Emanuela, sono dovuta scendere in paese. Scendere in paese? Perché? Dove, sì. Dove vive? Perché noi viviamo in un'Alpe, vicino al Monte Rosa, uh-huh. E noi non abbiamo rete, non abbiamo campo. Non abbiamo campo. Niente, niente, no. Niente proprio? Un WhatsAppino. Niente, proprio niente. Ma nemmeno il telefono. No, no, per fortuna no. Neanche una decina di minuti su Facebook al giorno, nulla. No, per l'amor del cielo, no, no, no, no. Dio mi salvi. Twitter. No, no, no, no, no. Instagram. Ma cos'è? Forse dovremmo farla lì la comunità per i dipendenti da social. Esattamente, sì, esattamente. Sì. Il comune qual è? Varallo, provincia di Vercelli, il paese, insomma. Sì, il sì, paese. Sì, Varallo è il paese più grande, ma in realtà noi viviamo ancora in un altro più piccolo ancora, che è Civiasco. Civiasco. Tra l'altro, la storia di Emanuela Ceruti Garbaccio è molto bella, perché insomma, laureata in economia a Pavia, prima ha lavorato tra Novara e Milano, quindi città, soprattutto Milano, grande città. Poi che è successo? E poi è successo che mi sono resa conto che era una vita che a me non dava alcuna soddisfazione personale. E rimettendomi in discussione ho trovato l'amore. Ho sposato un pastore e mi ha dato la vita che cercavo. Cioè. E qual era questa vita? Una vita lontano da tutte queste frenesie e anche un po' da un senso troppo estetico e di plastica per come sono fatta io, diciamo, la nostra vita molto più concreta, ecco. Quindi lei prima ha conosciuto quest'uomo del quale si è innamorata e poi lui le ha proposto di andare a vivere lì dove già lui stava, mi sembra di capire? Ma l'ho conosciuto e al primo appuntamento mi ha portato in questa baita piena di animali che io non avevo mai visto praticamente, ma immediatamente ho capito che ero a casa. Era la sua vita. Anche lui è stato coraggioso per sedurla, perché tra tanti posti in cui, in cui portarla ha rischiato grosso, beccava una donna diversa. No, tra l'altro ovviamente si deve vivere di qualcosa e voi avete deciso di vivere con il formaggio Macagne, sì. È giusto? Sì, giusto, giusto. Ce lo spiega, sì, cioè che formaggio è? Un che formaggio cos'è? È un formaggio tipico delle zone delle Alpi, viene prodotto utilizzando solo un latte appena munto, quindi si munge e si fa. Tutte le mattine, tutte le sere, ogni giorno dell'anno mungiamo tutte le nostre mucche e immediatamente dopo cominciamo a produrre questo formaggio. È molto dolce, è tipico insomma delle zone del Piemonte. Ma in di che cosa sa? Che genere di formaggio è? È un formaggio quindi solo con latte di mucca, latte vaccino. È molto molto digeribile perché è fatto con un latte di altissima qualità, quindi è, come diciamo noi, biocompatibile, no? Cioè siamo oltre lo slow food proprio. No, ma io vorrei capire se questa, che come la possiamo definire, una sorta di, vabbè, certamente un cambiamento di vita, la possiamo definire una economia di resistenza oppure no? Sì, noi viviamo prevalentemente di autoeconomia, si può dire, e per restare in tema slow molto dobbiamo anche certamente al fatto di essere un presidio e quindi di essere attorniati non da clienti ma da amici che ci amano e che collaborano con noi mangiando il nostro formaggio. Ma quindi non c'è stato un punto di rottura, cioè non c'è stato il punto in cui lei ha dovuto rinunciare a qualcosa della città? No. Si è subito trovata bene, non ha avuto problemi di ambientamento. Cioè, Emanuela, nessun rimpianto di questa vita frenetica urbana in cui noi siamo travolti. La pericena non le manca. Quando vi incontro, mi viene voglia di portarvi via. Ci compatisci un po'. No, però è interessante questo punto che ci racconta Emanuela Ceruti, perché molti nella vita, è inutile negarlo, probabilmente Leonardo Manera lo penserà 100 volte al giorno, Veronica Gentili secondo me è un po' più equilibrata e strutturata meno, ma pensano voglio lasciare tutto, voglio cambiare vita, voglio andare lontano, voglio... In realtà magari è un pensiero che uno ha, ma sì, vero, cosa vuol dire farlo davvero, mm-hmm. Emanuela? Perché... questa c'è una è la bella differenza. Fase di depurazione nella quale tu ti rendi conto che la grande parte delle cose, delle abitudini a cui oramai tutti sono avvezzi ogni giorno non servono a nulla. Siamo veramente all'ascesi quasi. Sì, però c'è anche da notare che lei ha fatto questa scelta dopo aver trovato l'amore, che quindi è elemento fondamentale. Probabilmente senza di lui non avrebbe fatto questa scelta. D'accordissimo, sì, perché mai avrei vissuto questo ambiente dall'interno. Lui mi ha guidata dentro un mondo che effettivamente è impenetrabile, secondo me, ormai. Però Emanuela, ci sono delle esigenze, voglio dire, quotidiane, anche piccole problematiche da risolvere. No, grandi, io ho due bambini, perciò... Ah, ecco, per esempio. Ah, ma quanti anni hanno? 8 e 10 anni. E come vanno a scuola? Scendono a piedi fino al paese e poi noi abbiamo un comune molto collaborativo che ci ha dato l'autobus e me li porta poi giù nel paese più grande a scuola. Ma quanto ci vuole a fare questa discesa, giusto? Adesso loro sono diventati velocissimi, quindi una mezz'oretta. Buona, via. Cioè, prima abbiamo parlato di Heidi, praticamente la vita è simile a Heidi. L'abbiamo trovata, Heidi, l'abbiamo trovata. Manca solo il cane Nebbia, ce l'avete il cane Nebbia? Ancora no. Ma i bimbi si divertono o sono insofferenti a questa vita così bucolica? Sono soli, Emanuela, cioè sono soli, stanno con voi, ma non vanno a scuola però. Però non possono giocare con un amico. Tutta l'estate ci sono molte famiglie che ci vengono a trovare e poi hanno una fortissima emancipazione, gratificazione, perché i bambini vengono considerati alla pari, quindi ci aiutano. Marco munge da più di 5 anni oramai. Ah, sì? E aiuta la sua nonna, sì, lavorano con noi. Vabbè, ma Emanuela, a proposito, ma mi racconta un po' il suo rapporto con queste mucche, queste vacche preziosissime con le quali si produce questo formaggio, che ho capito che vengono trattate sicuramente molto meglio di me a casa. Sì, vengono coccolate, viziate e loro amano essere coccolate, ognuna di loro ha il suo nome, ha la sua campana, il suo suono e rispondono con il loro carattere, sono esattamente come noi, hanno la loro individualità, le loro amicizie, le loro antipatie e quindi bisogna prenderle in considerazione. Vabbè. Insomma, questo, uno spaccato proprio di vita, ma davvero da Heidi, ma non lo dico per qualcosa di così distaccato, di lontano da noi. Secondo... È in realtà calata proprio nella realtà italiana. I suoi figli invece della PlayStation o la Mu Station. La Mu Station, vabbè, insomma, no. Lo abbattiamo subito, adesso. Ce l'hai la catapulta lì? Sì, verrà adesso durante il traffico. No, vogliamo ringraziare davvero Emanuela Ceruti Garbaccio. C'è un sito internet qualcosa? Per raggiungere. Abbiamo il sito del presidio che è proprio www.macagne.com. Macagne, è scritto con la GN finale, Macagne.com. Io faccio subito un ordine adesso, ma si può ordinare questo formaggio? No, perché chilometro... No, dovete venire da noi. Dobbiamo andare da lei, fare anche mezz'oretta. Alessandro, mi faresti la gentilezza di farti un attimo la passeggiata su nelle Alpi e andarmi a prendere due pezzettini di Macagne? Se i suoi figli ci mettono mezz'ora, io un'ora, un quarto, direi che potrei lo mangio a giugno io il formaggio. La ringraziamo molto, Emanuela Ceruti Garbaccio, la nostra funambola. Davvero ci ha raccontato questa vita in equilibrio bello, però mi sembra comunicava una serenità totale dalla voce. Volevo dirvi una cosa, ragazzi. Oscar Wilde diceva: niente è più necessario del superfluo. Io, ahimè, sono attaccata qui all'urbe. Sì. Niente. Con le unghie e con i denti. Lei è quella di cultura, dai, il traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta i funamboli. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Rapporto in crisi, però è così kitsch. Dove l'è andato a prendere questa espressione? Dove l'è andato a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi? Ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Chi parla male, pensa male e vive male. Trend negativo. Trend negativo. Io non parlo così, non penso così. Per chi non avesse visto Palombella Rossa, c'è anche lo schiaffo alla giornalista che dice: com'è kitsch? No, un cheap. Esilarante Nanni, sì. Moretti, esilarante. Cheap. Cheap, paf, gli dà lo schiaffo alla giornalista. Chi parla male, pensa male. Caro Leonardo Manera, tu usi tanti anglicismi. Io ne ho sentito uno terribile qualche tempo fa, che è trucecchinare. Cos'è? Ah, oddio. Dal check-in che tu fai quando prendi l'aereo, quando hai un volo con degli scali, sì. Si può fare il trucecchinaggio. Cioè, trucecchinare. Sì, che in Italia viene italiano proprio con trucecchinare. Cos'è il Ma sapete che esiste il colanzo? Colazione pranzo. Certo, come la pericena. È come la pericena. Questa l'ho sentita per la prima volta ieri e mi è preso un colpo. Colanzo, effettivamente, non so. Comunque, facciamo un colanzo. La nostra lingua, così ricca, così bella, così antica, così anche moderna e così bistrattata a volte. Vogliamo salutare un nostro ospite, che è Claudio Marazzini, il presidente dell'Accademia della Crusca. Quindi io mi metto un po' sull'attenti e sbaglierò chissà quante cose. Professor Marazzini, buongiorno e grazie buongiorno, di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Perché, sì. Perché è uscito il Devoto Oli, 50 anni del Devoto Oli, e c'è proprio una sezione di pronto soccorso linguistico per evitare gli anglicismi. Ma intanto, professor Marazzini, perché facciamo ricorso, noi che abbiamo una lingua straordinaria, a questi termini? Ecco, trucecchinare forse non l'aveva mai sentito neanche lei. Non era arrivato a tanto. Non l'avevo sentito. Comunque questo è già un adattamento, perché hanno attaccato una finale di verbo all'italiana. Quindi bisogna distinguere tra il forestierismo integrale, che si prende così com'è, e invece quello che in qualche modo si cerca di adattare. Perché riprendiamo? Riprendiamo in parte, alcuni sono anche utili, non è che non possiamo fare una guerra indiscriminata, perché naturalmente, per esempio, è tutto il settore della tecnologia, Wi-Fi lo chiamiamo Wi-Fi, è difficile. Ci sono dei casi in cui l'invenzione dell'oggetto comporta l'adozione della parola, fin dal tempo dell'arrivo del cioccolato o la canoa o la banana, sono tutti esotismi. Però per esempio sul computer, noi lo chiamiamo computer, i francesi resistono e continuano a chiamarlo ordinateur. I francesi sono lo so, perché è dimostrato che gli italiani sono tra i popoli dell'Europa, rispetto a spagnoli e francesi, i più aperti, diciamo aperti, che non è una parola di condanna, potremmo dire proni, succubi, poi potremmo cambiare il termine di fronte alle parole. Però lei è molto diplomatico, siamo aperti. Siamo i più dutti. Ma anche quando si tratta di termini in qualche modo alti, per esempio il quantitative easing, i francesi l'hanno tradotto a supplissement quantitatif tranquillamente, anche nei giornali lo usano, da noi invece quantitative easing non si scappa. Però questo utilizzo della lingua inglese determina anche un impoverimento da parte nostra dei termini italiani, insomma conosciamo meno l'italiano perché utilizziamo di più l'inglese? Certo. Non tanto per i termini tecnologici e nemmeno dell'economia e della finanza, ma soprattutto per i termini banali, perché lì veramente, ecco, se uno su TripAdvisor deve scrivere location perché non sa più dire posto, luogo, località, eccetera, è certo che è un po' impoverito, perché rinuncia a 4-5 parole italiane per adeguarsi a una banalità. Ci si incontra per la venue. Bisogna distinguere certamente da caso a caso. Nell'esempio che facevate, per esempio, qualcuno prima forse era nel pezzo proprio di Palombella Rossa, c'era Chip. C'era, sì. Anche Seriani l'altro giorno citava casi del genere come quelli più fastidiosi, insomma. Sì, a volte è per darsi anche un tono. Ma perché, Presidente, una delle cose è che, per esempio, mentre l'errore ortografico, no, già di suo è un'onta, una vergogna, quindi si viene presi in giro, scatta una sorta di sanzione sociale, mentre con tutto ciò che ha a che fare col lessico c'è una maggiore tolleranza, c'è più lassismo. Anzi, ti considerano una persona, visto, trendy, la location, sì, per rimanere trendy, in tema, trendy. Molto trendy. Certo, mission, eccetera. Ma certo, evidentemente è un atteggiamento di esterofilia che deriva da un sentimento di debolezza e scarsa fiducia nella propria lingua, questo è il punto. Una fiducia che altri popoli hanno più forte. Senta, però, il francese in modo particolare. Come no, si sa, professor che, Marazzini, però c'è un aspetto, giustamente Veronica Gentili l'ha toccato, la questione dell'ortografia. A me fa impazzire, ma qual è con l'apostrofo? Un altro con l'apostrofo mentre un'altra non si mette l'apostrofo. Ma poi soprattutto, ma voi non sapete quante mail arrivano? Siamo andati a mangiare A con l'H, perché ho mangiato, siamo andati a mangiare, ma guardate, di persone che sono anche magari anche laureate, professore, non c'è da scandalizzarsi, c'è un livello veramente, io non lo so dove si è rotto questa questione per cui si fanno questi errori banali di ortografia, ma ce ne sono tanti. Sì, certo che c'è da scandalizzarsi in questo caso, perché nel caso dell'ortografia non c'è scampo. L'ortografia non è soggetta al movimento naturale della lingua e nemmeno alle influenze, quindi è ben regolata e andrebbe senz'altro rispettata, si deve imparare nelle scuole elementari, nelle scuole primarie. E d'altra parte c'è stato proprio di recente quel documento del 600 che addirittura ha denunciato gli errori di ortografia negli elaborati universitari, nelle tesi. Senta, io ho letto, so se è vero, che l'Accademia della Crusca sul quale ha abdicato, esatto, nel senso che ha detto ormai tutti, non è vero, non è una bufala. Qua ce lo deve chiarire, effettivamente. Resistere. No, ce lo deve chiarire, professore, è una questione, io mi sono appassionato, l'ho letta sui giornali per giorni e giorni. Quale si scrive senza apostrofo? Questo almeno è quella, è la vulgata, insomma, quello fino che... a qui non ci piove. Però è nata una diatriba interessantissima. Cioè, c'è chi dice che qual è si debba scrivere con l'apostrofo. Sì, perché dunque, dato che qua il problema è quello dell'elisione o del troncamento. E dato che nel caso di qual è, evidentemente è troncamento, e come si fa a vederlo? Basta provare a metterlo davanti a consonante. E io dico, qual buon vento ti porta? Quindi non c'è la E, non c'è nessun apostrofo perché è troncamento. Allora, cosa succede? Siccome c'è sempre qualche linguista che deve andare controcorrente, in tutte le scienze c'è il medico che la dice diversamente, l'economista che ha una tesi diversa. Allora, c'è effettivamente qualche linguista, ma sono veramente pochi, che sostiene che quel caso di troncamento un po' peregrino, perché nessuno più dice qual buon vento ti porta, e quindi a questo punto è diventata un'elisione. E quindi ci vuole l'apostrofo. Questa prova di commutazione davanti a consonante è tirata per i capelli. Però la posizione... È una contrapposizione a priori, per cui uno... No, chiaro, diciamo, la posizione dell'Accademia della Crusca è importante, cari ascoltatori, è che qual è si continua a scrivere senza apostrofo, giusto? Certamente. L'Accademia della Crusca ha parlato. Ma per professore, invece io leggevo, rispetto anche a quello, appunto, a questa famosa task force che ha istituito il ministero, di cui si occuperà Seriani, che c'è un problema reale anche rispetto alla comprensione del testo nei nostri studenti. A caso si parlava di ripristinare il riassunto come una forma fondamentale più dei temi, perché si fa difficoltà a leggere, a gerarchizzare le informazioni, a capire i testi. È un argomento che da molti anni, per la verità, che si dibatte, tant'è vero che il riassunto ha già anche nelle linee guida ministeriali già ora uno spazio rilevante. I linguisti insistono molto sul riassunto, l'ha fatto anche Seriani, perché preferiscono un esercizio di logica applicato a un testo di altri, È un testo moderno, perché naturalmente si tratta di fare il riassunto di articoli di fondo del giornale, quindi non il riassunto di una poesia. No? Infatti leggevo inserire per esempio gli articoli di giornale, perché farlo, capito, con l'infinito di Leopardi è più complesso, è un altro genere di cosa. Il riassunto, al massimo si deve fare l'ampliamento nel caso del film. O va parafrasato, non so. Non basta nemmeno, cioè, la spiegazione diventa lunga. Un'ultima cosa, è vero che l'Accademia della Crusca, siccome non si usano più, ha abdicato sui congiuntivi anche? Beh, professore, è il nostro provocatore Leonardo Manera. Semplicemente che ci sono state delle osservazioni del presidente, dell'ex presidente, del presidente onorario, anzi questo è il suo titolo, Sabatini, che ha spiegato e giustificato certi casi in cui il congiuntivo non viene più collocato secondo le regole standard dell'italiano. Poi va bene dare una spiegazione di quello che avviene in una scrittura elegante, il congiuntivo ci sta. Sì. E quindi, no, ma guarda, il professor Marazzini, io lo metto. Noi non l'abbiamo avvisata prima, ma quando fa le domande Leonardo Manera, lei non deve rispondere seriamente. No. Ecco, questa. Non si preoccupi, ci siamo dimenticati di imbavagliarlo. Però ma adesso la ringraziamo moltissimo, anche perché non so voi, ma mi ha messo in un mood positivo. Oh, mood. Sì, sì, anche a me. Io direi che la sintesi è God save the consecutio temporum. Esatto. Dai, siamo alle 10:31 minuti. Dobbiamo andare a sentire le informazioni sulla borsa. Poi tornano i nostri defurbizzati, i nostri ascoltatori che ci raccontano quando hanno fatto i furbi. Quanti errori ortografici hanno fatto? No, quelle non sono furbizie. Dai, quello non sono lo dico. Sciatterie. Dai, andiamo. Donna, in quei giorni particolari del mese ti piacerebbe poter andare in moto, andare a cavallo, andare in discoteca, cimentarti in incontri di lotta greco-romana? Ebbene, tutto questo con gli assorbenti Bellugi diventa un sogno. Assorbenti Bellugi, permeabili, evidenti, ingombranti. Assorbenti Bellugi, l'ideale per essere costretta a casa e poterti così dedicare a te stessa. Prova anche tu gli assorbenti Bellugi. I funamboli. But nice. Forse è vero che il candidato leader dei 5 Stelle sarà uno solo e avrà gente che si contrappone a lui poco nota, però su Berlusconi, che non si può candidare e che si autoproclama re del centro, del centrodestra, nessuno ha detto una parola. E infatti il centrodestra non ha mai fatto le primarie, no, comunque i nostri ascoltatori. Questa è una delle cose che vengono dette più spesso, per esempio anche sulle primarie del PD. È vero che assolutamente mille primarie sono state pseudo tarocche, che si sono fatte delle cose, sono andati a votare, è vero, chiunque, i cinesi, i rom, che ci sono state 2000 polemiche. Però il discorso è che i 5 Stelle di questa cosa ne hanno fatto la loro virtù. Cioè, questa è la differenza sostanziale. Secondo me tu hai spiato la schermata degli ascoltatori, no, perché Enzo da Milano vuole intervenire, pare, proprio su questo. Enzo, pensa. Buongiorno. Sì, pensa che non l'ho neanche fatto. Oh, Milan, intanto forza Juve, Milan, dai. Ma sempre, dai, vincerete la Champions League anche quest'anno. Perdere, no. Anche quest'anno. No, sai qual è? Che quest'anno abbiamo perso la prima e vinceremo l'ultima. Ma quest'anno è sicuro, quest'anno è già vinta, ve l'hanno già data. Fisso. Quest'anno la Coppa, la Coppa dalle grandi orecchie è vostra. Tu ti sei... ingaggiato praticamente la Veronica. No, io non ingaggio nessuno. Radio 25. Una volta l'ascoltavamo la mattina, no? No, mi paga Milan, a me non mi paga la radio. È furba perché effettivamente ha bruciato la mia domanda. Perché io non sono un militante di 5 Stelle, non voto 5 Stelle, però sta cosa è qua in un paio di giorni da ieri, insomma, e siccome abbiamo assistito negli anni a primaria, come le ha definite La Veronica, avrebbe dovuto dirla pure in occasione di quando ci sono state le primarie tarocco, specialmente quelle del PD, con molti voti, sai, i rom, i cinesi, quella. Assolutamente sì. No, ma lei c'ha ragione, quindi la confermo ulteriormente che è vero, non è che le primarie degli altri invece sono tutte belle rose e fiori. Proprio per questo si sperava che quelle dei 5 Stelle, che della rete e della voce collettiva ne hanno fatto la loro ricchezza, fossero veramente delle Veronica, primarie. Però, ma cioè, nel senso, non è che stanno taroccando i voti, cioè si discute del fatto che contro Di Maio non ci siano dei grandi nomi, e va bene, ci sono quelli che si sono candidati. Si discute del fatto che ci può essere un pluralismo di pensiero, altrimenti si decide che c'è un pensiero unico e che in qualche modo c'è un pluralismo di 8 candidati, poi gli altri 7 saranno sconosciuti, ma quello è. Alessandro, dai, andiamo a Giulio da Milano. Giulio da Milano, vediamo che ci dice. C'è Manera che chiama. Manera, conduci, vai Manera, dai. Allora Giulio da Milano, buongiorno. Giulio, cosa ci racconti, sì. Giulio? Sì, buongiorno. Sì. Io volevo parlare sulla opinione che ho sentito di Saviano. Sì. Prima di tutto, lui non è un iscritto al Movimento 5 Stelle, allora lui sa che non si può candidare. Se sarebbe un iscritto, penso che le avrebbero dato l'opportunità. Infatti ha detto di aver fatto quando una provocazione. Riferisce una provocazione. Quando Grillo voleva partecipare alle primarie del PD. Sì. E Fassino chiaramente gli ha detto: tu non puoi partecipare, se vuoi essere un leader, costruisci il tuo partito. E lui l'ha fatto. E allora Saviano, diciamo, queste parole dovrebbero andare direttamente a Saviano. Sì. Se lui vuole essere un leader e partecipare alla vita politica, faccia un partito. Faccia il suo partito. Ma Giulio ha fatto una provocazione. Tutte le possibilità di democrazia partecipativa. Una provocazione. Mi piace molto fatto. Come questi Giulio dice Saviano. Saviano. Sembra spagnolo. Sono come alcuni giornali che ho letto oggi che dicono che Saviano pensa di rilanciarsi perché è in un momento di magra e quindi vuole fare politica. Ma quella di Saviano è solo e unicamente una provocazione, proprio nei termini di quello che abbiamo detto prima. Ma cioè, dei candidati impopolari e anche giocando sul fatto che dice anch'io sono indagato come Di Maio per diffamazione, sì, sì. Che è anche una cosa nobile a seconda di come viene fatto e perché, e quindi è una ha provocazione, fatto questa provocazione. Punto. Dai, alle 10:42 minuti dobbiamo andare al nostro defurbizzato del giorno, cari amici. 800 24 00 24, oppure scriveteci a funamboli@radio24.it. è il momento in cui dovete raccontare. Defurbizziamoci. Che non ci sta molto bene. Dovete raccontare. Defurbizziamoci. È Peter Bescapè che stamattina. Ma no, è giusto, giusto. La sigla è questa. Dovremmo cambiarla. Ma Carlo ci ha chiamato, ci ha scritto. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Che ci vuoi dire, sì. Carlo? Che ma hai combinato, Carlo? Ma non so se è una cosa di cui essere orgogliosi, ma da ragazzo andavo a scuola in treno. Mm-hmm. E ho non c'è niente di male. Ah, non era finito l'episodio. Ho falsificato l'abbonamento del treno per trovarmi in mano un gruzzoletto di contanti da spendere in altro modo. Cioè, falsificando vuol dire si fa la foto. No, e non è le istruzioni, sì. Per no, falsificare. Vabbè, allora, adesso, al momento non mi ricordo neanche che come l'abbia fatto. Appunto, vabbè, un minimo dettaglio. No, ma non è. No, diciamo, non vogliamo istigare al crimine. Però no, raccontacela vabbè, bene. Raccontacela no, vabbè, bene. È stata una bravata fatta in adolescenza. No, ma come si può fare? No, Carlo, Alessandro vuole conoscere i dettagli tecnici. Vabbè, esattamente come hai plastificato l'oggetto, cioè vuole proprio sapere tutto. Credo di aver usato una gomma un po' aggressiva per cancellare una timbratura e poi aver fatto una timbratura contraffatto, una timbratura, un'operazione sofisticata. Credo 2-3 anni di carcere. Ma poi tu nella vita sei andato avanti con queste tue inclinazioni, cioè hai falsificato anche banconote, documenti, cose. Assolutamente no. Sei un malvivente oppure una persona con la fedina penale pulita? No. No, vabbè, adesso il mio atto di funambulismo in questo preciso istante è che ho chiuso, io sono un commerciante, ho chiuso il negozio per poter parlare con voi. Ah beh, ma è straordinario, ha cacciato quindi anche credo tanti clienti. Che c'è Carlo? Scritto? Lavori in vabbè, corso? Chissà, magari veniva un cliente a comprarmi mezzo negozio e me lo sono perso. Va bene, ma adesso due minuti e la lasciamo. Sì. Però com'è finita questa storia del... Ma è finita che il controllore si è impietosito e... Ah, l'ha beccato? Però sì, esatto, sono stato beccato. Una falsificazione penosa è stata anche. Bravo, esatto. Ma come sei impietosito il controllore? sì, perché non mi ha più, diciamo, non ha dato la multa. Non mi ha fatto la multa, mi ha soltanto fatto capire che se andava dritto per la sua strada potevo finire nei guai. Cioè grossi. Non ha segnalato una spiccata tendenza a delinquere, no? Soprattutto, cara Veronica, ci ha raccontato tutto di come l'ha falsificato, ma l'ha falsificato male. Questo dovevi fare meglio. Imparare dagli errori e falsificare meglio. Ecco, poi niente, ma poi chissà quante altre cose che ho combinato, ma non mi sembra il caso. Vabbè, ce ne hai raccontata una, caro Carlo, e quindi meriti. Forse non è il caso. Meriti il nostro timbro, la nostra patente di defurbizzato. E anche voi, cari ascoltatori, raccontateci le vostre furberie. Io invito tutti i controllori milanesi da oggi a stare attenti ad Alessandro Milan quando lo fermate, perché è evidente che lui oggi pomeriggio tenterà di falsificare l'ho un abbonamento. L'ho fatto una volta, l'ho raccontato lì. col biglietto dove c'era la maggiorazione per arrivare a Sesto, e io ho detto che non ero di Sesto San Giovanni, sono nato. Ma lì non l'hai falsificata, no, io già ti vedo oggi pomeriggio a procacciarti l'oggetto, no, capito? Non ho mai falsificato nulla. Dai, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, che poi Leonardo Manetti ci sollazzerà con qualcos'altro. I funamboli. Dovete anche ricordarvi, siamo nell'ultima parte dei funamboli anche oggi, che se ci ascoltate dall'estero siete il nostro patrimonio, anzi, we want you. Dovete scriverci all'800. Oh, mamma mia. Scriverci, chiamarci non potete dall'estero, ma se ci scrivete 349-238-6666 via WhatsApp, noi vi chiameremo in onda perché è così. Perché ci piace. Per conoscere qualcosa delle vostre vite, per sapere come. Purple cosa Rain c'è? Ossessione Purple Rain. È diventata un incubo. Sì, esatto. Caro Leonardo, prima abbiamo parlato del devoto italiani all'estero, per sapere anche come parlate italiano, perché prima Ale abbiamo parlato col presidente dell'Accademia della Crusca, una cosa importante. Secondo me faremo altre puntate con lui, qualche lezione di italiano. Che dispiacere averlo lasciato andare. Mi sono reso conto che il linguaggio, conoscere le parole, può aiutare nella vita anche di tutti i giorni, caro Alessandro. Per esempio, se tu conosci una ragazza che ti piace, le dici sei bella, un po' banale, no? Ma se tu invece le dici sei avvenente, attraente, affascinante, graziata, leggiadra, seducente, scultorea, lei magari non te la dà lo stesso, però tu la colpisci un po' di più. Il linguaggio è come la musica, può essere una strofa semplice oppure la puoi arricchire quella strofa con parole, verbi, aggettivi. Allora il linguaggio, come la musica, può diventare un linguaggio jazz o jazz, come dicono quelli che parlano bene, se intorno a quella strofa di base c'è una improvvisazione di parole. Per esempio, io posso dire stamattina mi sono alzato e sono venuto qui a Radio 24, semplice. Oppure posso dire stamattina mi sono alzato in preda all'uggia per l'autunno imminente, aspro per l'orario e mal confortato da un pavido caffè in una metropolitana pigia tosto sono giunto a Radio 24 ad ascoltar parole e mirar sorrisi di Alessandro Milan e Veronica Gentili. Omaggio a Mauro Meazza. Esatto. Tosto soprattutto. Però allora, siccome ci sono tutti questi neologismi, non è il devoto Oli, il famoso petaloso, eccetera, ciaone, allora anch'io mi sono detto, perché anch'io non propongo qualche neologismo? Bene, vediamo se il pubblico gradisce e anche voi. Ve ne dico alcuni. Per esempio, gradare, fare una stima della temperatura percepita senza affidarsi al termometro. Per esempio, gradare. Oggi grado 28. Grado 28. Poi, yogluglu. Questa la vedo più di... Modo per definire direttamente lo yogurt da bere senza dover dire yogurt da bere. Mi dia uno yogluglu, che è già yogurt da bere. Ma un che dischimese, però... Guarda che qualcuno questa te la ruba, vorrei uno yogluglu. Poi... Yogluglu. Buster Keaton, ragazza molto seria da Buster Keaton. Vabbè, sì. Da Buster Keaton, Buster Keaton. Frigare, gelare una persona, per esempio, con questa notizia, ma hai frigato, cioè mi hai gelato da frigorifero. Bella. Sciacco. Persona non solo sciocca, ma anche scialba. Persona scialba e sciocca, uno sciacco. Uno sciacco. Poi svezzatino. bambino di piccole dimensioni che ha appena smesso di prendere latte dalla mamma. È piccolo, è uno svezzatino. Bella, ma che bello, sa anche un po' di spezzatino poi, no? Poi, cincinofilo, persona amante dei brindisi, il cincinofilo. E ride. Facebook, notifica di Facebook che ti sembra di aver già visto in passato. Poi c'è questa che più che una parola è una espressione. Gaudente da latte, amante della bella vita ma molto giovane. Vabbè, ne ho ancora tre. Ne ho ancora tre. Cardavere, macchina ormai da rottamare, una cardavere. Questa unisce l'inglese all'italiano. È un anglicismo neologico. Poi alimentario, sì. Uomo in procinto di divorziare, cioè di pagare un alimentario. Vellina, ragazza molto carina ma che si depila raramente, cioè con molto vello, una vellina. Sì. Questo potremmo lanciare una moda. E per finire, bon ton ton, educazione nel dare le indicazioni stradali. Allora, io devo dire che personalmente lo yo glu glu lo suggerisco, e anche frigare. Guarda che i quindicenni, i quattordici, mai frigato. Mi hai frigato. Ma secondo me potrebbero... Ah, zio, mai frigato. Esatto, mai però frigato. La vellina io non la sottovaluterei. A me piace, eh? La vellina. Donne che non volete depilarvi, velline da domani. C'è Camilla che ci chiama da Modena. Buongiorno Camilla. Buongiorno. Io avevo chiamato, avevo cercato di intervenire un attimino prima quando c'era ancora il professore, adesso sì. Non ricordo. Presidente dell'Accademia della Crusca. Sì, esatto, che mi disturba tanto è questa volontà, questa voglia di dire queste parole che non sono più italiane, addirittura quelli latine o italiane diventano parole inglesi, tipo una cosa che non mi piace per niente è il plus che è diventato plus, il plus. Che al odio plus. Per me è, però so che c'è come una i media. Un'altra questione, io dico anche media. Sempre e vengo preso in giro da questa, da tante cose, io dico summit, però no, summit è inglese perché deriva da summit, io dico summit alla latina, c'è un summit, sei un no? Purista, no, invece qualcuno sbaglia, però Camilla le dà fastidio questo. Scusa, ma voi non lo conoscete il Bademicam? No, il Bademicam. No, attenzione, c'è Povia. Immigrazia, portami via, che per mandare avanti il PIL vogliono i nuovi schiavi qui. Gli immigrati di domani saranno i nuovi italiani. Immigrazia. Portami via a me. Senti questo. Perché i genitori erano tutto duri. Oggi i figli sono molli. Perché? Siamo tutti molli. Beh, ma straordinario, ragazze. Mogol gliel'ha scritta. Mogol è Povia. Grazie Leonardo per averci dato questa segnalato. Ho segnalato, ma dici che dobbiamo invitare Povia? Che dite, ragazzi? Ma anche no. Cioè, nel senso, pensiamoci, però vediamo. Facciamo una riflessione. Dobbiamo chiudere ringraziando Peter Bescapè in regia, in redazione Lorenzo Nespoli, Elisa Pancaldi, Elisabetta Fusconi. I funamboli tornano domani alle 9. Con tu vada via. Immigrazia, portami via. Che per mandare avanti il PIL vogliono i nuovi schiavi qui.